Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io sono personalmente contrario, io sarei per la legalizzazione e regolamentazione della prostituzione, perché fino a prova contraria il sesso non fa male, la cannabis sì. Si è acceso, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, un nuovo dibattito, nuovo, insomma, diciamo che a tranche riprende in Parlamento, questo l'avete sentito dal segretario della Lega Salvini, sulla liberalizzazione delle droghe leggere, quindi della cannabis, e di solito spesso viene messa poi in mezzo anche la prostituzione, come ha fatto Salvini. Ma qual è il punto di partenza? È che è stata presentata a Montecitorio una proposta di legge trasversale, quindi 218 parlamentari l'hanno firmata di vari partiti, per la liberalizzazione della droga leggera. Leggera, cioè la cannabis, perché spiegano nell'ultima relazione la Direzione Nazionale Antimafia ha detto che insomma la guerra, diciamo le operazioni repressive nei confronti dell'aumento dell'uso della droga leggera in realtà è stato fallimentare e ci sguazzano soltanto gli spacciatori in tutto questo, la criminalità organizzata, e quindi chiede la Direzione Distrettuale Antimafia al legislatore di intervenire. Per questo è stata fatta questa proposta e Salvini ha detto preferisco allora legalizzare la prostituzione perché fa meno male. Ora bisogna vedere se poi viene veramente regolamentata, se non ci sono più le schiave del sesso, allora sì, perché sennò poi non fa male agli utilizzatori finali, ma fa male alle donne schiave che fanno parte di questo racket internazionale. Comunque vi chiedo di esprimere la vostra opinione sulla possibilità appunto di liberalizzare la cannabis, visto che appunto per il momento sembra una specie di accordo trasversale, vi dicevo. Allora il numero per intervenire è quello per i messaggi, che è il 349-238-6666, ma sapete che è sempre anche a vostra disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte, sulla quale già vedo diversi messaggi, perché l'ho lanciato un po' prima. Se voi guardate un po' prima la pagina della trasmissione, di solito vi lancio già una domanda, un argomento, e questa sera poi potete commentare anche le notizie più importanti della giornata che tra poco vi racconto. Per esempio torniamo naturalmente sulla Grecia, perché oggi non so quanti vorrebbero essere Tsipras, così come da qualche mese in queste trattative così difficili, ma oggi si trova sul fronte interno il primo ministro greco, perché deve far approvare al suo Parlamento questo durissimo piano di riforme. Già il suo partito Siriza si spacca, molti lo hanno abbandonato, lui dice o stiamo uniti o qui bisogna tornare ad elezioni. Poi parleremo anche della povertà per quanto riguarda l'Italia, che dopo 2 anni di crescita sembra ferma, ma sarà effettivamente una buona notizia? Sappiate che sono più di 4 milioni i poveri assoluti in Italia. Poi parleremo anche di sport, ci sono tante cose da raccontare, Ivan Basso che si è operato e sembra che vada tutto bene, e una medaglia d'oro dalla scherma per l'Italia da Mosca, Rossella Fiammingo. Insomma, tante notizie, voi intanto fate le vostre riflessioni, io vi racconto in sintesi la giornata. Grecia, poche ore dal voto del Parlamento greco sul piano di riforme, Tsipras perde pezzi del suo partito e lancia l'ultimo appello, votate sì o me ne vado. L'accordo sul nucleare iraniano, il giorno dopo Obama apre a Mosca e dice con l'Iran è stata di aiuto. Il ministro iraniano Zarif osannato intanto in patria come eroe nazionale. Il rapporto Istat si arresta all'indice della povertà delle famiglie italiane, ma gli indigenti sono oltre 4 milioni. Roma, gioielliere aggredito e ucciso durante una rapina in centro, nella zona Prati. Cannabis, 218 parlamentari firmano per la legalizzazione contraria alla Lega. Sport, ai mondiali di scherma di Mosca il primo oro per l'Italia arriva da Rossella Fiammingo, e per il ciclismo Rafael Maika ha vinto oggi l'11ª tappa del Tour de France. Ivan Basso operato, torna a casa domani. Partiamo dalla Grecia, questi sono gli scontri di piazza che sono iniziati, piazza Sintagma, la piazza simbolo di Atene, e di vari gruppi, lancio di molotov, lacrimogeni, sentite, un gruppo probabilmente di anarchici con caschi, estintori, magliette nere ha fatto irruzione nella piazza con lancio di bombe, carta e petardi. Iniziano le prime manifestazioni un po' violente, finora erano state abbastanza contenute, diciamo che il popolo greco e ateniese in particolare era rimasto piuttosto calmo, quindi davvero sono frangenti difficili questi per il paese, per Tsipras, sia in Parlamento ma anche in piazza. E una giornata appunto lunga, difficile, anche più di altre che ha passato. Intanto vi dicevo però il suo partito Siriza perde pezzi, Tsipras però ha lanciato l'ultimo appello ai suoi parlamentari, o siamo uniti stasera o domani cade il governo di sinistra. Man mano ci aggiorniamo su come cosa avverrà nel dibattito parlamentare ad Atene. E c'è una richiesta interessante del Fondo Monetario Internazionale, che è quella di tagliare il debito di Atene, altrimenti si dice non se ne esce. Quindi il Fondo Monetario, dopo che si è continuato a dire che Atene doveva pagare i debiti, suggerisce di tagliare il debito, di alleggerirlo. Ne parleremo poi con un economista. Intanto siamo sull'accordo sul nucleare iraniano. We have cut off every pathway for Iran to develop. Questo Obama, presidente americano, che parla, ha parlato prima in anteprima al New York Times e poi in una conferenza stampa, e dice difende l'accordo sul nucleare. L'alternativa all'accordo con l'Iran sul nucleare, dice, sarebbe la guerra, perché se non ci fossero le ispezioni rimarrebbe solo la possibilità dell'uso della forza militare, cosa che diceva anche ieri qui effetto nota Emma Bonino. E si rivolge sia al primo ministro israeliano Netanyahu, che ha criticato duramente l'accordo con l'Iran, sia al congresso americano, che dovrebbe approvare l'intesa. E sul ruolo di Mosca, Obama dice: Putin mi ha sorpreso, Mosca è stata d'aiuto. Siamo adesso sull'economia italiana con il rapporto Istat relativo alla povertà. Finalmente uno stop alla povertà e un miglioramento per le famiglie italiane, ma il nodo degli indigenti rimane, con circa 4 milioni di persone sotto la soglia della sopravvivenza. Dopo due anni di aumenti nel 2014, infatti, l'incidenza della povertà assoluta in Italia, secondo l'Istat, si mantiene sostanzialmente stabile. Indagando sulla spesa delle famiglie, quelle in povertà assoluta risultano 1.470.000, quasi il 6% di quelle residenti, per un totale di 4.102.000 individui. Stabili anche gli indici della distribuzione della povertà sul nostro territorio, con 4,2% al nord, 4,8% al centro e l'8,6% al sud. In compenso, migliora la situazione economica delle coppie con figli. Quelli in povertà assoluta ci sono ancora, ma le percentuali sono cambiate, passate dall'8,6% al 5,9%. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo, dicevo, torneremo a parlare con una sociologa. E adesso invece passiamo alla politica, al dibattito che vi annunciavo all'inizio: legalizzare la cannabis. Oggi è arrivata la proposta di legge firmata da un gruppo trasversale in Parlamento. 218 parlamentari di quasi tutti gli schieramenti hanno firmato la proposta di legge per la legalizzazione della cannabis. Per spiegare nei dettagli di cosa si tratta è stato creato un sito cannabislegale.org. Secondo questa proposta di legge, i maggiorenni potranno detenere una modica quantità per uso ricreativo, 15 grammi a casa e 5 grammi fuori casa, e coltivare in casa fino a 5 piante. Previsti anche i cannabis social club, che consentirebbero la coltivazione in forma associata. Possibile la vendita al dettaglio in negozi forniti di licenza dei monopoli, resterebbe invece il divieto di fumo in luoghi pubblici. Il tema della legalizzazione ormai nei fatti, spiega il presidente dell'intergruppo parlamentare Benedetto Della Vedova. Il problema non è più se, il problema è quando avremmo da guadagnarne dal punto di vista del contrasto alla criminalità e perfino dal punto di vista dell'economia legale, della crescita economica e del bilancio dello Stato. Controcorrente il leader della Lega Matteo Salvini. Sono personalmente contrario alla legalizzazione delle droghe leggere, ha detto, sarei per la legalizzazione e la regolamentazione della prostituzione, perché fino a prova contraria il sesso non fa male, la cannabis sì. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vedo tanti messaggi che stanno arrivando sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 su questo argomento, poi man mano li leggerò. Adesso però passiamo ad altri provvedimenti della politica. C'è stato il via libera oggi dell'Aula del Senato al disegno di legge di conversione del decreto pensioni. Il testo ristabilisce quindi la rivalutazione automatica sulle pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo INPS per il 2012-2013, perché la Consulta, vi ricordate, aveva dichiarato illegittimo il blocco istituito dalla legge Fornero. Il provvedimento ora è legge. E poi via libera dell'Aula della Camera l'assorbimento, seppure eventuale, della Forestale in un'altra forza di polizia prevista dall'articolo 7 del disegno di legge sulla pubblica amministrazione, uno dei punti più dibattuti del provvedimento appena approvato all'Assemblea di Montecitorio. E siamo alla cronaca. A Roma, il titolare di una gioielleria del quartiere Prati è stato ucciso durante una rapina, è accaduto in via dei Gracchi. Secondo una delle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito alla testa, le vetrine erano svuotate, il locale è soqquadro, la vittima si chiama Giancarlo Nocchia, di 70 anni. E il fratello ha detto che aveva già purtroppo subito altre rapine. Rimaniamo sulla capitale, dove il sindaco Marino resiste, ma sempre con più fatica. È È l'ultimo scossone, qualcuno dice quello fatale per la giunta Marino. Di certo le dimissioni di Luigi Nieri, vice sindaco, ma anche uomo di fiducia del primo cittadino, impongono l'urgenza del rimpasto. Lui è infatti il settimo a uscire in soli 2 anni. Nieri, non indagato ma citato più volte nelle carte dell'inchiesta su Mafia Capitale, dice di aver abbandonato per non lasciare alibi a chi lo usa per attaccare il Campidoglio. Ma a pesare sull'addio ci sarebbe stata, secondo alcune ricostruzioni, la pressione esercitata dal PD per liberare la casella di vice sindaco, con l'ipotesi di assegnarla ad un proprio esponente di peso in una sorta di commissariamento dello stesso Marino. Del futuro dell'amministrazione capitolina il sindaco ha parlato oggi al Nazareno con il commissario Dem a Roma, Matteo Orfini. Tra i nomi che circolano, quello di Lorenza Bonaccorsi, fedelissima di Renzi, ma c'è chi vede in Alfonso Sabella, magistrato e assessore alla legalità, l'asso nella manica di Marino per rasserenare i rapporti con Palazzo Chigi. Intanto gli occhi sono puntati sul ministro dell'interno Alfano, che dovrà esprimersi sulla relazione di Gabriele, che ha allontanato sì la possibilità che il comune venga sciolto per mafia, ma ha posto pesanti ombre sul Campidoglio, che potrebbero generare terremoti consistenti nell'apparato amministrativo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E appunto siamo a Roma, è arrivata questa ulteriore agenzia sul gioielliere ucciso a Roma, avrebbe reagito alla rapina di quartiere Prati e quanto ricostruito finora dai carabinieri, che indagano sulla vicenda. L'uomo, durante una colluttazione, sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente. Dai primi riscontri sembra che il 70enne abbia aperto la porta a un uomo con la parrucca, che probabilmente si è finto un cliente. Adesso invece ci spostiamo a Milano, dove in uno dei processi per l'amianto nelle sede della Pirelli oggi sono stati condannati 11 ex dirigenti. Colpevoli per quelle morti da amianto, colpevoli perché tra gli anni 70 e 80 lasciarono che gli operai subissero esposizioni massicce e ripetute alle fibre di amianto e per questo si ammalarono. Il Tribunale di Milano condanna per omicidio colposo e lesioni 11 ex dirigenti della Pirelli a pene tra i 3 e i 7 anni per quelle polveri respirate negli stabilimenti di via Ripamonti e via Lesarca. Una sentenza ancor più pesante delle richieste dell'accusa, che avrebbe voluto 3 assoluzioni, ma per la Corte tutti gli imputati, ex vertici della multinazionale dei pneumatici, sono responsabili a vario grado dei mesotelioma contratti dai dipendenti, i cui eredi, nella maggior parte dei casi, sono stati già risarciti dalla Pirelli, condannata ora anche al pagamento di una provvisionale di 520.000 euro. Alla sbarra anche 2 nomi particolarmente simbolici: Piero Serra, passato dal vertice della Pirelli a quello dell'Associazione per la ricerca contro il cancro, e poi Guido Veronesi, fratello del celebre oncologo. Uniti si vince, esulta l'associazione per gli esposti all'amianto attraverso l'avvocato Laura Mara. Estrema soddisfazione, perché questa sentenza viene dopo altre 2 sentenze di assoluzione. Pirelli annuncia ricorso e rivendica, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, la correttezza degli ex dirigenti. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso ancora la cronaca: è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il carabiniere in servizio alla compagnia di Foligno in Umbria, dalla cui arma di servizio il 16 maggio scorso era partito il colpo che ha ucciso il collega Emanuele Lucentini all'interno della caserma. A suo carico è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Poi c'è stata anche una condanna per femminicidio, è stato condannato a 20 anni di reclusione Salvatore Maniscalco, 39 anni, accusato di aver ucciso il 9 aprile dello scorso anno la moglie Concetta Conigliaro di 27 anni e di averne poi bruciato il cadavere. L'uxoricidio avvenne a San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo. I resti della giovane furono ritrovati carbonizzati in un casolare di campagna. La coppia aveva 2 figlie e si era separata dopo che la donna aveva denunciato il marito per abusi sessuali. Quando poi la giovane scomparve misteriosamente, i sospetti degli investigatori si concentravano proprio su di lui, che alla fine crollò. Calciopoli: assolto oggi l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi dall'accusa di diffamazione nei confronti dell'ex presidente dell'Inter Giacinto Facchetti, perché il fatto non costituisce reato. E per quanto riguarda lo sport, ci sono varie notizie: mondiale di scherma di Mosca, il primo oro per l'Italia che arriva da Rossella Fiammingo. Per il ciclismo, Rafael Maika ha vinto oggi l'11ª tappa del Tour de France. Ivan Basso, che si è operato, è andato, pare, tutto bene. Poi scenderemo nel dettaglio più tardi, però prima di aggiornare chi sta viaggiando volevo leggere qualcuno dei vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook che al 349-238-6666. Daniele da Carozzo Corte dice: liberalizzare la marijuana, ci sono già troppi imbecilli in giro. Poi Max: i nostri giovani si drogano già adesso agevolmente, proibire non serve, tanto vale liberalizzare come stanno facendo in tutto il resto del mondo, addirittura negli Stati Uniti. Poi se legalizzassero, dice un altro ascoltatore, la cannabis, aprirei un coffee shop. Non so se si scrive così, no, si scrive con una F in più. Ettore dice, a proposito di Varoufakis, fa un gioco di parole, veri fakies, sarebbe appunto davvero farlocco, eh? E poi Amleto da Milano: andrebbero regolamentati sia la liberalizzazione delle droghe leggere sia la prostituzione, due problemi che sarebbe meglio aver sotto controllo dello Stato che della malavita. Amleto non sei per niente amletico, in questo hai le idee chiare. Ne continuiamo a parlare dopo, a proposito di questa proposta trasversale in Parlamento di legalizzare la cannabis. Ha detto adesso Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, poi continuerò a leggere i vostri messaggi su questa proposta in Parlamento di legalizzare la cannabis e poi le voci contrarie. E vi ricordo tra pochissimo le notizie più importanti. Parleremo tra poco di Grecia, di cosa sta avvenendo, perché oggi sapete che c'è il voto in Parlamento per approvare questo pacchetto di riforme. Mica è finita la via crucis di Tsipras, al di là insomma di errori, di sbagli da una parte e dall'altra. Le notizie più importanti. L'out-out di Tsipras al suo partito Syriza: votate il piano o me ne vado. Lascia intanto la vice ministra delle finanze. Intanto ci sono scontri in piazza. L'apertura di Obama a Mosca sull'Iran, dice che l'Iran è stata di aiuto, l'alternativa era il rischio guerra. Si arresta l'indice della povertà delle famiglie in Italia, ma indigenti sono comunque oltre 4 milioni. E poi questa vicenda di cronaca a Roma: un gioielliere aggredito e ucciso nella zona Prati, è stato colpito la testa. Legalizzazione della cannabis: il disegno di legge di oltre 200 parlamentari. Salvini si dice contrario, dice meglio la prostituzione che non fa male. E poi aumenta la morsa dell'afa, di questo vabbè ve lo accorgete, 40 gradi dal Veneto alla Sardegna, attesa del picco di calore previsto per venerdì. Non mica finita qui. Europa 24 notte. E ne parliamo di Grecia, perché oggi è il giorno X o il D-Day, come lo vogliamo definire, per il primo ministro greco Tsipras, che perde vari pezzi ancora del suo partito Syriza, perché si è dimessa la vice ministra delle finanze, che è l'economista Nadia Valavani, contraria al piano di salvataggio. Che cosa sta succedendo intanto in queste ore? Sergio Nava, ciao Sergio. Ciao Roberta, ci sono due fronti aperti in questi minuti, anzi uno in realtà fortunatamente pare poi essersi richiuso, però quello che è avvenuto stasera: da una parte il Parlamento riunito in seduta plenaria, in questo momento sono in corso gli interventi dei vari ministri e anche dei vari deputati per approvare il famoso pacchetto di riforme. Contemporaneamente però in piazza Sintagma, praticamente davanti al Parlamento, per alcuni minuti ci sono stati scontri con lanci di Molotov. L'abbiamo sentito all'inizio, proprio il rumore di scontri e tafferugli. Si tratterebbe appunto di piccoli gruppi anarchici di estrema sinistra. Il tutto è nato all'interno di una manifestazione di alcune migliaia di persone di sinistra che manifestavano contro l'approvazione di questo pacchetto. Come dicevo, pare che tutto sia rientrato, però tanto è bastato, pensate, per far girare in negativo la borsa di Wall Street. Guardate quanto i mercati poi sono suscettibili. Esatto. I mercati, però, diciamo con la Grecia in particolare. Quello invece sta avvenendo in Parlamento è il tentativo di far votare entro la mezzanotte greca, alle 11 italiane, il pacchetto. Possiamo anche tra l'altro sentire una voce, un contributo da quello che sta avvenendo. Questo è l'intervento molto accorato che il ministro delle finanze in carica Tsakalotos ha fatto pochi minuti fa in Parlamento, dicendo: non avevamo scelta, dovevamo accettare quell'accordo, e ha ammesso da un punto di vista personale che quella scelta, quel giorno, la domenica notte, sarà un giorno che lo segnerà per il resto della vita. E io il greco non lo capisco, però ho visto il filmato di Tsakalotos parlare, si vede il dramma personale di questo economista che ha firmato un accordo sapendo che era comunque un pessimo accordo. E ancora maggiormente il dramma di Tsipras, no? Che sta perdendo proprio pezzi, e se il suo partito dovesse squagliarsi come pare possa succedere, non so quanto potrà ancora reggere come da domani. Da domani vedremo cosa succederà. È chiaro che il rischio per Tsipras comunque di un governo di unità nazionale è evidente. È anche vero che dall'altra parte, se guardiamo l'opposizione, non ci sono più pesi massimi in grado di contendergli la leadership, il posto da primo ministro. Non c'è più Samaras, che si è dimesso, Venizelos pure, che il socialista Venizelos è uscito un po', è entrato anzi, scusate, nel cono d'ombra, ma il Partito Socialista praticamente non esiste più. E gli altri partiti non hanno leader così carismatici, quindi la Grecia è in una situazione un po' paradossale. Il tutto, e qui chiudo, potremmo dire, guardando al quadro un po' più ampio, con un'Europa che ancora non si riesce a mettere d'accordo, ed qui veramente entriamo un po' nel campo dell'imbarazzante per quanto riguarda l'Unione Europea, su dove trovare i soldi per il famoso prestito ponte a 7 miliardi, perché comunque c'è un'opposizione da parte dei paesi della zona non euro a usare un certo tipo di fondo che ha l'acronimo IFSM, E poi il paradosso di un FMI che, dice il Financial Times, potrebbe addirittura non entrare in questo nuovo piano di salvataggio e che pubblica un memorandum in cui praticamente chiede di tagliare il debito. Di questo parleremo tra pochissimo, sì, col prossimo ospite, però ti voglio chiedere solo l'ultima cosa. La Francia intanto, non so se è stato il primo paese di questi dell'Unione Europea che ha votato sia nell'Assemblea Nazionale che al Senato questo piano di richieste, sì, ed insomma, è stato, come sappiamo, perché ci sono diversi devono votare, parlamenti, no? Devono votare non anche tutti gli altri parlamenti. Diciamo i veri test saranno il Parlamento tedesco e col Parlamento finlandese. Era scontato che il Parlamento francese approvasse, probabilmente approveranno anche gli altri visto che i governi hanno dato il via libera, però la Francia sicuramente ha voluto dare un segnale. La Francia ha sempre giocato negli ultimi giorni a fianco, il ruolo di mediatore, ma mettendosi a fianco del governo greco, ha voluto dare un chiaro segnale votando addirittura prima del Parlamento greco, e questo chiaramente il segnale a Tsipras e alla Grecia è stato evidente. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Dicevamo prima, che anche con Sergio Nava, che la cosa interessante è che il Fondo Monetario Internazionale ha detto che potrebbe chiamarsi fuori dalla cosiddetta troica, cioè dal trio Banca Centrale Europea, Commissione Europea e appunto Fondo Monetario Internazionale, perché dice che questo è un accordo fragile che non rimuove affatto i rischi di una Grexit, cioè dell'uscita della Grecia dall'euro. Però chiede il Fondo Monetario Internazionale di tagliare il debito, forse era quello che aveva chiesto finora Tsipras, la Grecia, non era mai stato fatto. Adesso il Fondo Monetario Internazionale chiedo delucidazioni a Tommaso Monacelli, che è docente di macroeconomia all'Università Bocconi di Milano. Buonasera professor Monacelli. Buonasera a tutti. Quindi è un paradosso questo del Fondo Monetario, che cosa chiede, di fare uno sconto al debito di Atene o cosa? Ma non lo definirei un paradosso, è una posizione molto pragmatica, né ovviamente dettata da moralismi o altri argomenti. Il fondo probabilmente meglio di altri ha imparato un po' la lezione della storia nella quale è stato protagonista, cioè essenzialmente l'America Latina degli anni Ottanta, in cui dopo anni di tentativi di risolvere i problemi dei vari paesi, a cominciare dal Messico del 1982, tentativi che si basavano sempre su questo approccio che purtroppo è stato anche seguito in questi anni con la Grecia, cioè noi vi prestiamo dei soldi, voi stringete la cinghia e ripagate. Per 10 anni la famosa detta è perduta, questo approccio non funzionò, fino a che l'amministrazione americana, spaventata diciamo dal punto di vista soprattutto dei rischi geopolitici, ci furono i famosi scontri a Caracas in Venezuela con bagni di sangue, purtroppo ci cominciano a venire notizie anche dalla Grecia non in modo sorprendente su questo, decise con un approccio molto pragmatico di attuare il famoso piano Brady, che sostanzialmente fu una rimodulazione del debito sostanziale per questi paesi. E dalla fine degli anni Ottanta in poi, non a caso, diversi dei paesi dell'America Latina intrapresero percorsi di riforme, di liberalizzazione, di apertura al mercato, al commercio internazionale, eccetera. Quindi è una posizione pragmatica, chiaramente non qualsiasi debito, non ovviamente un incitare i paesi ad indebitarsi perché tanto poi le cose vengono perdonate, tra virgolette, ma ad un certo punto un contratto probabilmente più efficace può essere proprio quello di offrire una rimodulazione sostanziale, efficace del debito in cambio di riforme che siano credibili. Sostanzialmente è questo quello che dice il fondo, e quindi è una brutta notizia il memorandum del fondo, perché non tanto perché si vuole, diciamo così, tirare fuori dalla troica. Da questo punto di vista sarebbe anche una buona idea, perché non si capisce bene cosa c'entra il Fondo Monetario, no? con la troica. Questo è interessante che lei lo dica, professore. Perché lo dice? Perché dice fuori dal... Ma perché è un segno, ma perché l'Unione Europea è un segno di debolezza, di fare entrare certamente della capacità di governance di questi problemi da parte dell'Unione Europea, che invece potrebbe, se vogliamo, con questa occasione in quel fondo monetario, non ho molte speranze su questo, ma insomma col fondo monetario che magari si sfila, riempire uno spazio decisionale mostrando di avere ancora una capacità istituzionale di gestione di queste situazioni di crisi, che dia fiducia, no? Nell'architettura dell'Unione Europea. Quindi che il fondo si sfili di per sé, strettamente parlando, potrebbe anche essere una buona notizia. Il problema è che si sfila, adesso vedremo, ma si sfila in disaccordo sull'approccio decisionale, cioè sul piatto non ancora una volta non è stato messo per uno scambio il rimodulazione del debito in cambio di riforme. Ancora una volta l'approccio è austerity in cambio di riforme. Mi scusi, professor Monacelli, ma da quanto chiede questa cosa il Fondo Monetario Internazionale? Da che sono iniziati i negoziati con la Grecia nel tentativo di risolvere il debito e la possibilità di Grexit, o è iniziato più di recente? È recente e dobbiamo chiarire che su questo ha enormi responsabilità Tsipras, perché visto dal punto di vista macroeconomico, da gennaio, di fatto dall'arrivo del governo Tsipras, l'economia greca non ha fatto altro che peggiorare, quindi proprio il quadro macroeconomico che sembrava di parziale sostenibilità del debito greco ad un certo punto è talmente peggiorato, sostenibilità è sulla base degli aiuti che erano stati dati prima dai paesi europei, ad un certo punto è storia di questi ultimi 7 mesi di peggioramento sostanziale dell'economia in Grecia, prima ancora del blocco delle banche, della chiusura. Ma perché il Fondo Monetario Internazionale o altri non hanno chiesto prima questa decurtazione del debito, alleggerimento del debito greco? Allora, questo probabilmente è una questione chiaramente diplomatica. Per non creare precedenti, dice. Ma insomma, era parte della troica, probabilmente sarebbe stato piuttosto clamoroso incalare le braghe, diciamo, fuori dai denti. Sì, no, ma in realtà adesso mi pare, visto che un po' le carte si stanno sparigliando, perché sembra una sorta di atto finale, mi pare che il fondo stia assumendo una posizione basata sui dati, cioè sulla base delle previsioni dell'andamento dell'economia greca, sia per il futuro, ma sulla base dei dati che sono venuti negli ultimi 6 mesi, e in cui la sostenibilità del debito greco appare in grave pericolo. E mi pare che l'approccio sia fortemente pragmatico. Che non vuol dire vi perdoniamo, arrivederci, grazie, tutto finito. Chiaramente significa inutile continuare a stringere le mani al collo, perché prima o poi soffoca. Professor Monacelli, secondo lei quante possibilità ci sono che venga ascoltato il Fondo Monetario Internazionale? Tra l'altro, tra i leader europei vedevo soltanto stasera una dichiarazione di Cameron, primo ministro britannico, che ha detto: ha ragione il Fondo Monetario Internazionale, serve un alleggerimento, è nell'interesse del Regno Unito che l'Eurozona decida in tal senso. No, le possibilità sono molto scarse, perché qui staremmo parlando appunto di un nuovo precedente, cioè dal punto di vista dei paesi creditori dell'Unione Europea questo potrebbe essere percepito come un precedente pericoloso. E il secondo punto, direi, è molto importante, è che non vorrei far passare il concetto alleggerimento del debito to cure ed è finita lì, cioè tutto deve essere fatto in un quadro di scambio con le riforme molto solenne, molto chiaro, in cui si dà spazio di respirare nel lungo periodo alla Grecia in cambio giustamente di riforme importanti che modernizzino il paese e rimettono la Grecia in grado semplicemente di far funzionare la propria economia verso la media dei paesi dell'Unione Europea, perché non è che diverse delle riforme che vengono chieste siano da strozzini, cioè chiedere che la Grecia abbia un'autorità statistica nazionale indipendente non mi pare una richiesta da... Certo, o sulle baby pensioni, che ormai tutti si devono adeguare su questa cosa. L'ha detto lo stesso Tsipras ieri, che effettivamente era da fare questa cosa qua. Professore Monacelli, speriamo che si inizi una strada finalmente di buon senso. Adesso vedremo cosa voterà il Parlamento greco, però... Non ha molte speranze, insomma. No. Purtroppo, sconfortante. Grazie, professor Monacelli, intanto. Buonasera a voi, arrivederci. Grazie, buona serata. prima di lasciarci brevemente per questa pausa di ricreazione ancora i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito della proposta in Parlamento ampia, trasversale di legalizzare la cannabis. Beppe dice: sì, sono d'accordo che si possa legalizzare l'uso della cannabis per togliere una fonte di guadagno alla malavita. Il proibizionismo non serve, ha fallito. In Italia sono già legali altre forme di dipendenza come l'alcol, il tabacco, il gioco d'azzardo. Lorenzo da Padova: se Salvini dice così, perché ha a cuore la salute degli italiani? Cosa pensa di alcol e fumo? Vietare anche quelli? E poi, legalizzare la cannabis non solo servirà a togliere un grosso affare alla malavita, ma consentirebbe anche di evitare i rischi connessi alla manipolazione attraverso sostanze molto dannose per l'organismo, vedi l'uso dell'ammoniaca per accelerare l'essiccazione. E poi qualcun altro scrive: qualcuno ha informato Salvini che l'alcol uccide decine di migliaia di persone l'anno? Vietiamolo, ipocrita. Pannella scrive, un altro ascoltatore o ascoltatrice, al 349-238-6666, ha fumato erba tutta la vita e ha più di 80 anni. Lui è veramente una roccia in ogni caso. Poi sulla pagina Facebook, Irene: della cannabis non mi sono mai interessata, ma una legalizzazione della prostituzione potrebbe essere una buona cosa se contemporaneamente ci fosse un impegno serio a togliere dalla strada le ragazze che sono schiave. Il problema della prostituzione non è il sesso, ma la schiavitù a cui sono sottoposte le donne, in alcuni casi anche gli uomini, dalla mafia. Mi pare che sia condivisibile. Ci sentiamo tra poco. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Food Lab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7:10 del mattino qui a Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. If I can have the slide back. We are now going to focus on a small region just near the bottom of this image, which is near the day. Sentite, adesso stanno parlando delle prime foto ravvicinate arrivate di Plutone. Ieri c'era questo successo della sonda Horizon, che è quella che ha raggiunto più da vicino il nano pianeta, perché non è più il nono, ma è stato declassato a nano, e delle sue lune scattate dalla sonda, appunto, New Horizon, durante il volo radente che l'ha vista sfrecciare sul pianeta nano a 14 km al secondo. Lo annuncia la NASA, come sentite, quindi questo entusiasmo, la scia di entusiasmo che continua. Ora invece vediamo il vostro entusiasmo nel rispondere all'input che vi ho lanciato questa sera, se a proposito della proposta in Parlamento trasversale di legalizzare la cannabis. Anche Salvini ha detto: preferisco la prostituzione perché non fa male, ma dipende se le donne non sono schiave. Michele dice: favorevolissimo, almeno si possono recuperare le tasse, più soldi, dice sulla pagina Facebook, più fiscalità, alcol e tabagismo mica fanno male, no, dice. E poi Federica: favorevole alla liberalizzazione della cannabis, di cui non me ne importa nulla, ma non credo nel proibizionismo, inoltre da rivalutare per i tanti altri usi senza principio attivo. Su Salvini cerca di distrarre dall'argomento, come sempre, così si parla di lui invece dell'argomento originale. Invece adesso parliamo delle notizie principali. La Grecia, a poche ore dal voto del Parlamento greco sul piano di riforme, Tsipras che perde i pezzi del suo partito ma lancia l'appello: votate sì o me ne vado. L'accordo sul nucleare iraniano, il giorno dopo Obama apre a Mosca e dice con l'Iran è stata d'aiuto, il ministro iraniano Zarif osannato in patria come un eroe. Il rapporto Istat, di cui parleremo tra pochissimo, sulla povertà. A Roma, il gioielliere aggredito e ucciso durante una rapina in centro, in zona Prati. Cannabis, 218 parlamentari firmano per la legalizzazione, contraria la Lega. Dello sport, ai mondiali di scherma di Mosca il primo oro per l'Italia arriva da Rossella Flamingo. E prima abbiamo parlato quindi della situazione economica della Grecia, tutto quello che sta succedendo. Per quanto riguarda invece, a proposito di economia casa nostra, sono arrivati i dati Istat che danno per certi versi una notizia che potrebbe essere buona, ma poi vediamo in che senso. Nell'indagine sulla spesa delle famiglie, dopo 2 anni di aumento, questo è il dato, nel 2014, chiaramente la ricerca è fatta rispetto all'anno scorso perché il 2015 ancora non è finito, l'incidenza della povertà assoluta nel nostro paese si mantiene sostanzialmente stabile, quindi questo è un dato positivo. In realtà però sempre l'Istat nei suoi dati rileva che 1.400.000 famiglie nel nostro paese, quindi il 6,8% della popolazione, se vogliamo stare agli individui, 4.102.000 persone sono in condizione di povertà assoluta. Poi adesso ci ragioniamo sul cosa significa la povertà assoluta, se questi dati effettivamente sono positivi o negativi. C'è anche l'Unione Consumatori che dice se i poveri fossero aumentati sarebbe stato ben peggio, ma la situazione è stabile. In questo caso significa una cosa molto grave, che non c'è stato alcun miglioramento e che i dati della povertà assoluta continuano cioè a essere da terzo mondo. Sentiamo prima di tutto il Presidente del Consiglio Renzi oggi dal suo viaggio in Africa, come ha commentato questi dati dell'Istat. C'è ancora molto da fare, io non sarò mai soddisfatto dei risultati economici finché non torneremo veramente ad avere dei grandi dati di crescita. Io quelli che quando vedevano uno 0,1% stappavano le bottiglie li ho sempre contestati. Allo stesso modo oggi dico, qui c'è tanto da fare, c'è da combattere ovviamente la rassegnazione di una parte del mondo del nostro paese. I dati ci sono positivi da molto tempo, arrivano dati positivi. E se riusciremo a mantenere, come io credo, penso e spero, il ritmo che ci siamo dati sulle riforme, voi vedrete che nei prossimi anni l'Italia tornerà a crescere in modo molto più significativo. Questo è il commento di Renzi. Ora vorrei sentire invece come giudica questi dati dell'Istat la professoressa Enrica Morlicchio, che è docente di sociologia economica all'Università Federico II di Napoli, autrice tra l'altro tra i molti saggi anche del libro pubblicato dal Mulino, Sociologia della povertà. Quindi siamo proprio sul tema, professoressa Morlicchio, buonasera. Buonasera. Professoressa, quindi lei come commenta questo dato? Intanto la povertà assoluta, cosa si intende per povertà assoluta? Allora, per povertà in assoluta si intende una spesa per consumi che è insufficiente a garantire un livello di vita minimamente dignitoso. Quindi è una definizione levemente diversa dalla povertà relativa, che significa non poter assicurarsi dei consumi che sono in linea con i consumi medi del paese. Quindi la povertà assoluta è una dimensione di povertà, possiamo dire, più severa rispetto alla povertà relativa. Più grave. Quindi, professoressa, il fatto che ci siano in Italia 1.470.000 famiglie, che a livello di singoli significa 4.102.000 persone, è, come dicono le associazioni dei consumatori, una situazione da terzo mondo? Ovviamente è diversa dalla situazione del terzo mondo, dove i livelli di povertà sono molto severi, ancora più severi dei nostri, ma soprattutto io spesso sottolineo come la povertà in Italia è paradossalmente più facile e più difficile da affrontare. È più facile da affrontare perché noi non siamo in presenza, se non in alcuni casi che pure esistono e sono importanti, andrebbero presi in carico, ma non siamo in presenza spesso di soggetti socialmente isolati che non hanno risorse personali da mettere in gioco, ma siamo in presenza di famiglie. Infatti, anche se la povertà assoluta rimane sostanzialmente stabile, come mostrano i dati, si nota comunque un lieve peggioramento della situazione delle famiglie con figli minori e delle stesse coppie con un unico figlio, ad esempio, che probabilmente sono coppie giovani che quindi si trovano in una situazione di precarietà occupazionale, di sottoretribuzione, che sono sicuramente famiglie che hanno risorse da attivare e da mettere in gioco e che quindi sarebbero più capaci di uscire dalla povertà se sostenute con politiche adeguate. Naturalmente, professoressa Morlicchio, il Sud se la cava sempre peggio, no? Certo, sicuramente, perché confermato, io dico che il Mezzogiorno è l'epicentro della povertà, nel senso che è il luogo dove i fenomeni si vedono meglio, anche se con caratteristiche simili al resto dell'Italia. Noi abbiamo una conferma del fatto che una metà delle famiglie povere vivono nel Mezzogiorno e l'incidenza della povertà, cioè il rapporto tra i poveri e la popolazione residente in tutte le regioni del Mezzogiorno, è a due cifre, mentre in tutte le regioni del Centro-Nord è al di sotto del 10%. Ma soprattutto c'è anche un fenomeno più preoccupante, che secondo me è quello di un depauperamento proprio sociale del Mezzogiorno, perché molte di queste famiglie, per sfuggire a condizioni di povertà, proprio perché, come dicevamo prima, magari hanno delle risorse personali da attivare, intraprendono percorsi di mobilità geografica interni o verso l'estero che nel lungo periodo produrranno anche un depauperamento sociale delle aree di partenza, come è avvenuto per le aree interne del Mezzogiorno. Per quanto riguarda possibili soluzioni o interventi, professoressa Morlicchio, c'è per esempio Massimiliano Dona, sempre dell'Unione dei Consumatori, ma poi anche Codacons e altre associazioni sono fatte sentire sui dati Istat, dice: chiediamo al governo di estendere il bonus di 80 euro anche agli incapienti o di valutare un reddito minimo garantito per questi poveri. Secondo lei può essere un intervento buono e fattivo? fattibile? Sicuramente, sicuramente, ma certamente è auspicabile la seconda di queste due misure, perché è stato detto ormai in tante circostanze, in modi diversi, l'Italia è uno dei pochissimi rimasti tra i due paesi europei che non ha una misura di sostegno al reddito per le famiglie, soprattutto per le famiglie con figli minori. Comunque una misura di sostegno al reddito non categoriale, cioè in cui non bisogna avere particolari caratteristiche che ti consentono di accedere a misure residuali come la social card per esempio, oppure che ne so, avere una disabilità specifica, ma semplicemente viene riconosciuta la necessità di accompagnare le famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà, come io dicevo prima, spesso temporanea, e quindi di accompagnare queste famiglie in un percorso di uscita dalla povertà e accompagnare per tutto il tempo di cui hanno bisogno. Quindi basta con sperimentazioni che sono limitate soltanto ad alcune aree geografiche, che creano anche una sorta di guerra tra i poveri. Quindi basta con misure limitate ad aree geografiche specifiche e con misure a tempo, perché di sperimentazioni ormai non abbiamo più bisogno. Sappiamo che queste misure funzionano, producono effetti positivi e anche in un'ottica di risparmio della spesa pubblica, perché ogni intervento che non si fa oggi su una famiglia con minori significa domani avere un ragazzino problematico in più, significa avere un adulto in più che entrerà in percorsi di autodistruzione, diventerà alcolista oppure diciamo imboccherà percorsi di devianza. Quindi speriamo, professoressa Morlicchio, visto che Renzi parlava, abbiamo sentito in questo passaggio, anche di riforme che riporteranno l'Italia alla crescita, che possa includere anche questa iniziativa del reddito minimo garantito almeno per i meno abbienti. Intanto questo la ringrazio. Non deve essere più uno slogan elettorale, perché ci sono, le famiglie non possono più aspettare. Grazie professoressa Morlicchio. Prego, arrivederci. Grazie, buona continuazione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo brevemente: oltre alla Grecia, dalla quale si sta aspettando il voto in Parlamento sul piano di riforme, a parte la proposta al Parlamento italiano trasversale sulla legalizzazione della cannabis, stanno arrivando moltissimi messaggi vostri sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Vi informo che sono state, con le prime foto che sono arrivate da Plutone, parrebbe che ci siano delle montagne sulla superficie del pianeta. E poi questa notizia di cronaca: 3 morti in casa, trovati in una casa di Napoli, probabilmente si tratta di omicidio suicidio. Adesso però ci colleghiamo di nuovo, ci colleghiamo con Atene questa volta, con Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Vittorio, che proprio lì in Parlamento c'è qualche novità, Vittorio? Sì, adesso c'è la prima serie di interventi dei partiti, ha parlato il rappresentante di Alba Dorata, poi ha parlato il rappresentante di Topotami, stanno parlando quindi tutti i vari gruppi parlamentari, mentre fuori c'è stata una protesta molto dura, ci sono stati degli scontri con lanci di Molotov e gas lacrimogeni da parte della polizia, quindi era proprio uno scontro di manifestanti anti-austerity, mentre in Parlamento Siriza, che aveva vinto le elezioni proprio promettendo misure diciamo per mettere fine all'austerity, sta proponendo al paese invece di appunto approvare un'altra misura di quel tipo per avere gli 86 miliardi di aiuti dei partner europei. È veramente una situazione paradossale, il paese sembra appunto in una situazione molto complicata, però il partito di Siriza, che è spaccato al suo interno e quindi potrebbero mancare i voti, dovrebbe avere l'aiuto delle forze filo europee del centrodestra e del centrosinistra, il PASOK, l'ex partito socialista, che oggi appunto ha dato il via libera all'aiuto ad Alexis Tsipras. Quindi questa è una situazione molto complessa, stiamo aspettando che fra un'ora, un'ora e mezza dovrebbe esserci il voto finale. Il presidente del Parlamento greco non ha voluto presiedere perché è contrario alle misure, ci sono stati anche dei problemi procedurali. La tensione è molto forte sia dentro l'aula che fuori, speriamo appunto di arrivare al voto, perché ci sarebbe questo deadline, questo limite delle 24 ore che i creditori avevano posto. Già, bene tutto. Grazie Vittorio Darold, ciao Vittorio. Ora in invece concentriamoci, alleggeriamo sullo sport. C'è il nostro Dario Ricci qui in studio. Ciao Dario. Buonasera, buonasera Roberta. Allora, innanzitutto io volevo partire dal ciclismo, ma poi è arrivata questa medaglia d'oro dalla scherma mondiale. Eh sì, Rossella Fiammingo, che tra l'altro si conferma campionessa, perché lei ha già concluso esattamente nella spada femminile, primo oro della spedizione azzurra, bellissima conferma, tra l'altro splendido regalo di compleanno che si è fatto Rossella, che ieri ha compiuto 24 anni, bis iridato, finale senza storia con la Samuelson 15-5, e chiaramente tutte queste sono medaglie che vanno lette nella prospettiva di quello che accadrà fra poco più di un anno, cioè di Rio 2016, esattamente. Questi sono i mondiali di Mosca, di scherma. Invece per il ciclismo Ivan Basso è stato operato oggi, mi sembra, che già domani dovrebbe tornare a casa, no? Sì, sì, direi che tutto è andato nel migliore dei modi, da quello che ci hanno fatto sapere l'ufficio stampa del San Raffaele di Milano. È lo stesso Basso, subito ritornato in ottimo umore, direi che sembra che tutto possa procedere per il migliore dei modi. Invece ci sono delle arrabbiature che riguardano Froome, il campione inglese, finora maglia gialla se non sbaglio. Sì. Anzi, qualcuno, praticamente di fatto già a meno di colpi di scena il vincitore del Tour. Però qualcuno insinua che abbia delle prestazioni un po' troppo da Superman, e uno tra questi è stato Lance Armstrong, che ha detto, campione che si sa che poi dopo ha distrutto la sua carriera. Armstrong per colpa del doping. Dice: non sono io quello che posso posso mettere in dubbio la pulizia o meno di un ciclista, e direi che questo è assolutamente ragionevole e condivisibile. Detto questo, è chiaro, il modo di mulinare le gambe che Froome ha, soprattutto in salita, ha dell'eccezionale, dell'incredibile. C'ha un motorino nelle ginocchia, che cos'è? Ecco, speriamo che non lo abbia nella bicicletta, perché come tu sai, so che è un tema che ti appassiona e vale la pena ricordarlo. Sì, una volta l'avevi detto e ho trovato dell'incredibile che si possa imbrogliare fino a questo punto in modo veramente bieco, mettere un motorino nella bicicletta. È uno sport che sta facendo gran fatica a ritrovare la propria credibilità. Il punto più basso, forse ancora più basso del doping, è quello di questi motorini che vengono inseriti nelle bici ultra tecnologiche, tra l'altro leggerissime. Beh, spesso nei tubolari chiaramente del telaio, ma c'è veramente una lotta tra gli ispettori e questi corridori truffaldini, perché è veramente comunque difficile scovarli, sia per le dimensioni sia per il loro posizionamento, tagliare in due le biciclette, sia anche perché vengono spesso azionati da telecomandi a distanza infrarossi. Puoi capire che per campioni di quel livello basta avere non chiaramente il moschito dell'Italia del dopoguerra, ma anche un motorino che è capace di sviluppare un 5% di potenza in più, di watt in più, per fare la differenza. Certo. Ecco, non è tanto questa l'accusa mossa a Froome. Se si mettono in dubbio dei parametri fisiologici che parlavano dei battiti del cuore rispetto al VAD che produce. Esattamente, sono parametri che sembrano fantascientifici e diciamo nessuno è disposto a metterci la mano sul fuoco, visti i precedenti. Però gli esami gliel'hanno fatti, no? Fino a provetta contraria, Froome è il campione, è per il dominatore, momento. Però è chiaro, è La bici l'hanno provato a segare? No, non ancora, però hanno fatto dei controlli su alcuni corridori del Team Sky, perché Froome è del Team Sky. Il doping è pericolosissimo, vergognoso, e poi dopo ci rimetti anche la salute, ma mettere un motorino è veramente una cosa bieca, proprio il livello più questi basso. Questi qua riescono tra l'altro a fare tutte e due. Quindi. Ah, pure, l'unplanned. Grazie Dario Ricci, speriamo che Froome sia un vero campione, almeno questa volta, e noi ci risentiamo invece alle 22 per gli altri aggiornamenti.